È proprio necessario avere una squadra o una nazionale fatta solo di bravi ragazzi, o è troppo facile se sono tutti bravi ragazzi e non è il caso di rischiare ogni tanto anche una testa un po' matta? Ma io ti dovrei rispondere come il tuo maestro, il Paron. I bravi ragazzi li mandiamo in chiesa. Io preferisco avere cattivi ragazzi, ma che sappiano giocare. Poi se non lo so gestire, la colpa è mia. Perché in campo si devono cattivi ragazzi, per modo di dire, perché non credo che questi, anche con questi comportamenti, siano dei cattivi ragazzi, nel senso, un termine un po' estremo, però io devo cattivi ragazzi nel senso con un carattere un po' diverso. Tu sai che da sempre i giocatori con carattere particolare sono quelli che difficili da gestire, ma sono anche quelli che ti, in certi momenti di difficoltà, ti cambiano il corso della partita. Certo, se sono bravissimi ragazzi, disciplinati, in più sono anche bravi e sanno fare il numero al momento giusto, allora sono buoni, son buoni tutti, però, a fare gli allenatori. No, insomma, da sempre. Certo, io farei un po' bel acuto piuttosto di dar coppia a questi ragazzi, perché è un po' tutti noi. Esaltiamo certe situazioni o certi comportamenti, ne parliamo un po' troppo. Io ti assicuro, Gigi, che quando sento protagonisti parlare, dire cose, come dice il nostro amico Gianni, aria fritta, sì, spengo e voglio vedere quello che fanno sul campo. Sul campo, si capisce. L'impostazione, parliamo di allenatori, l'impostazione che danno sul campo, come gioca la propria squadra, i giocatori come si comportano, tipo Melito in campo, ma quello che dicono dopo, veramente, o certi atteggiamenti provocatori che siano più o meno studiati, più o meno furbi, più o meno teatrali, certo, più o meno da alto studio, veramente non mi interessano. Se facessimo tutto così, nel senso che sì, lasciamo perdere, guardiamo i fatti.